fiore di loto mistico, Fristo stil novistico, come Dante alla ricerca del paradiso, la grande bugia del mondo, il paradiso è tutto intorno, io sono e rimango il più gran bugiardo, in questa testa lo sguardo rivolto al cielo, fiore mio d'incanto tu sboccerai. Miraggio del saggio.